Allora, buonasera. Io sono molto... mi dispiace per Antonio. Vogliamo incoraggiarlo con un applauso, per piacere. Mi dispiace, perché so effettivamente quanto lavoro e quanto sacrificio c'è nel preparare un messaggio, nel pensare di proporsi a fare qualcosa, e c'è tanto sacrificio, c'è tanto impegno, c'è tanta tensione, poi qualcosa va storto. Quindi da parte nostra c'è tutta la solidarietà nei suoi confronti, però nello stesso tempo sono anche contento. È buono, sì, perché condividere, perché anch'io ho fatto gli stessi sforzi che ha fatto lui, solo che prendo il bonus di sfruttarli due volte. Ecco, vediamola così. Ok, questa sera noi parleremo in maniera più specifica e dettagliata di quello che sono i gruppi familiari, questo servizio, quest'area importante della nostra Chiesa, e vogliamo scoprire il perché li viviamo, come Dio si aspetta che debbano funzionare, ed entreremo magari un po' più nel dettaglio. Questo è il mese che abbiamo dedicato proprio a quest'area, a dare attenzione a questo, e il pastore nelle prime due settimane ha fatto un lavoro di gettare un fondamento, di illustrarci quello che è nel cuore di Dio riguardo alle nostre relazioni, all'influenza che hanno, all'influenza che le nostre relazioni, il nostro modo di relazionarci ha negli altri, nell'importanza di vivere e di scegliere in maniera precisa quelle che devono essere le nostre relazioni. E è stato detto più volte che la Chiesa, e vivere la Chiesa, è vivere delle relazioni. Non è una liturgia, non è una parentesi da domenica a domenica, ma è proprio un essere famiglia, è un scegliere uno stile di vita, un scegliere dei principi, un scegliere chi essere, un'identità proprio per poter vivere la propria vita quotidiana, ogni giorno della settimana. E io ho pensato che se noi pretendiamo di vivere la Chiesa solo attraverso l'incontro della domenica o attraverso gli eventi che ci sono, dice no, ma io non c'ho tempo, mi basta la domenica, il Signore mi benedice tanto la domenica, noi possiamo essere paragonati a delle persone che hanno una malattia, hanno che ne so, hanno un'ernia, ecco, un'ernia, ma di moda l'ernia, e si sentono male e vanno dal dottore, e il dottore li cura, li visita e gli dà una terapia, gli dà delle medicine, e queste persone prendono la ricetta, vanno dal medico, pagano alla farmacia, prendono le medicine e poi prendono tutte le medicine, tutte le prescrizioni che il medico gli ha fatte e le mettono bene in vista sul comodino, in cucina, e li lasciano là e non fanno niente. E passa una settimana e il dolore rimane, quindi la settimana dopo rivanno dal medico e dicono: guarda che il dolore non mi è passato, io stavo male, sono andato dal medico, ho preso le medicine, le ho comprate, però non è passato niente. Pensate che il medico dirà o si assumerà la responsabilità di quello che è accaduto, o gli dirà: vedi che prima di venire dal medico devi andare dallo psicologo. Se noi pretendiamo di vivere la nostra vita di Chiesa da una domenica all'altra, escludendo la possibilità di vivere le relazioni dei gruppi familiari, siamo come quel tipo di persone che pretendono di guarire senza prendere le medicine. La Chiesa, la vita della Chiesa è vita, e la vita è relazioni. Non è cantare dei canti, stare assieme, passare un'ora e mezza sentendosi partecipi di qualcosa di bello e poi tornare a casa e ritornare alla propria vita. La vita della Chiesa è ogni giorno, è quotidiana. E noi come Chiesa del Pieno Evangelo crediamo che vivere la realtà dei gruppi familiari sia un mezzo che il Signore ha dato a noi proprio per poter afferrare pienamente tutti i benefici del far parte della Chiesa, del vivere la Chiesa. Quindi i gruppi familiari non li dobbiamo vedere come un'opzione, dici mi va, non mi va, mi piace, non mi piace, ma li dobbiamo vedere come qualcosa che il Signore ci ha donato per poter realmente mettere ognuno di noi nella posizione giusta, nella dimensione giusta, per diventare quello che Dio lo chiama ad essere. Che cosa sono i gruppi familiari? Sono una piccola cerchia di persone, proprio a livello familiare, che si riunisce regolarmente e mette intenzionalmente al centro dell'attenzione la persona di Gesù. E mettere intenzionalmente al centro la persona di Gesù fa la differenza, perché Gesù ha detto in Matteo 18:20, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ed è questo quello che rende speciale, quello che rende buono, quello che rende necessario il far parte e vivere i gruppi familiari. Perché non è scritto se tu da solo stai a casa tua e ti metti a leggere, a pregare, succede qualcosa. È scritto se due o tre. Quindi necessariamente deve esserci qualcuno al tuo fianco, deve esserci qualcuno con cui tu fai alleanza, con cui tu decidi di vivere qualcosa di simile. E i gruppi familiari sono qualcosa che la Bibbia prevede, la Bibbia insegna, e che noi vediamo anche praticato nella Chiesa del Nuovo Testamento, all'inizio proprio della fondazione della Chiesa. Dopo la predica di Pietro a Gerusalemme, subito dopo la discesa dello Spirito Santo, o nel contesto della discesa dello Spirito Santo, è successo qualcosa di speciale, una predica molto, molto semplice. Lui non ha fatto altro che dire alle persone quello che già sapevano, ma lo Spirito Santo ha fatto la differenza e 3.000 persone si sono convertite, 3.000 persone si sono battezzate. E che cosa hanno fatto queste persone? Hanno iniziato a riunirsi nelle case. Si riunivano al Tempio, ma si riunivano anche nelle case. Lo possiamo leggere assieme in Atti, al capitolo 2, al versetto 41. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ognuno era preso da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case. Quindi non è che facevano il culto solo la domenica, lo facevano ogni giorno. E nello stesso tempo trovavano l'occasione e si davano la possibilità di riunirsi nelle case per rompere il pane, cioè per fare la Santa Cena. E prendevano il loro cibo insieme con gioia, semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. E ci sono tanti altri passi nelle lettere che Paolo ha scritto, dove proprio mette in evidenza questa realtà che la Chiesa viveva di piccoli gruppi, di chiese nelle case. E lo vediamo scritto in 1 Corinzi, al capitolo 16:19, dove è scritto: le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Cioè c'erano delle chiese nell'Asia e c'era questa chiesa nella casa. E ancora in Romani 16:5 è scritto: salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Il fatto che ci fossero delle persone che facevano chiesa nelle case non è un'invenzione nostra, non è qualcosa che ci siamo svegliati e abbiamo detto beh, vogliamo fare qualcosa di nuovo, vogliamo provare a... No, è qualcosa che noi troviamo chiaramente scritto nella Bibbia e che ci dà istruzione anche di come farlo e di cosa fare. Detto questo, è molto importante che noi capiamo che cosa sono i gruppi familiari, a che cosa servono i gruppi familiari. E forse non riusciremo a rispondere a tutte le nostre domande, ma certamente questa sera potremmo appropriarci di principi che possono essere da faro affinché il nostro cammino, il nostro essere impegnati come Chiesa in questo, sia esattamente in linea con quello che è il piano di Dio, con quello che è il suo desiderio, con quella che è la sua parola. Dobbiamo dire innanzitutto che non è sufficiente che dei credenti si riuniscono in una casa, magari leggono la Bibbia e pregano assieme per fare una cellula, per essere un gruppo familiare. E voglio farvi un esempio per dimostrarvi che questo è vero, anche se può sembrare qualcosa di forte. Pensare che riunirsi in una casa davanti alla parola di Dio e pregare assieme crea automaticamente un gruppo familiare è come pensare che un gruppo di persone si mette la maglietta della squadra dell'Italia e va in un campo di calcio con un pallone e inizia a giocare e si sente proprio e si identifica e crede di essere la nazionale di calcio. Adesso noi lo comprendiamo che non è così, e allo stesso modo non è così, perché non è che cosa fai, ma è il perché lo fai. Per essere titolare della squadra italiana di calcio devi essere riconosciuto, devi essere investito, devi essere parte di qualcosa di che ti rende tale. Non è perché tu indossi la maglietta e giochi al pallone che diventi un calciatore della nazionale, è perché qualcuno ti riconosce in quel ruolo e ti dà quella autorità, ti dà quell'investitura in qualche modo. Allora va da sé la domanda di dire, allora che cosa deve succedere? Deve succedere molto semplicemente che devi essere parte della Chiesa. Devi credere nella visione della Chiesa, devi perseguire quello che è lo scopo e l'obiettivo che la Chiesa ha, devi essere sottomesso alla guida e ai leaders della Chiesa. Questo fa la differenza. Ed è una differenza molto sottile, perché può darsi anche che è molto bello quello che succede, ma quella piccola differenza di essere membro, di far parte, di essere sottomesso, ti dà veramente l'identità, il diritto di essere cellula, gruppo familiare della Chiesa o semplicemente di fare qualcosa di molto buono, che comunque rimane qualcosa di positivo. Allora, se i gruppi familiari devono rispondere alla visione della Chiesa e devono essere sottomessi alla leadership della Chiesa, è importante che noi sappiamo qual è la visione della Chiesa, perché se dobbiamo fare qualcosa almeno dobbiamo sapere che cosa dobbiamo fare. La mia domanda è a voi, qual è la visione della Chiesa? Chi è che la sa così subito? 1, 2, 3, 4, qualcuno di più, qualche altro che si convince, qualche altro che pensa di un popolo. Chi non lo sapeva continua a non saperlo, eh? Anzi, forse ha le idee più confuse. Un popolo di veri adoratori impegnati ad ubbidire al grande comandamento e al grande mandato farà crescere una grande chiesa per la gloria di Dio. Questa è la visione che Dio ci ha affidato. Questo è quello che Dio ci ha dato come missione, come chiesa. Ed è quello esattamente che noi vogliamo realizzare nei nostri gruppi familiari. Qualsiasi gruppo familiare della nostra Chiesa, di qualsiasi età, di qualsiasi genere, di donne, di uomini, e basta, non ce ne sono più, di altri generi, di giovani, di meno giovani, non ha un suo obiettivo, non ha un suo scopo, ma ha lo stesso scopo e lo stesso obiettivo che la Chiesa ha. È questo che lo rende speciale. E quindi capite perché noi diciamo e insistiamo sul fatto che per guidare una cellula il responsabile deve aver fatto il corso di consolidamento, il secondo corso di consolidamento. Perché? Perché in quel corso vengono insegnate e vengono messe in evidenza in molte prospettive quella che è la visione della Chiesa. E noi vogliamo essere sicuri che quello che facciamo risponde a quello che Dio ci chiede di fare. Non che le altre cose non siano buone, però se io domani mattina vado al lavoro e invece che fare il mio lavoro mi metto a fare il lavoro di un altro, sarò ripreso, non andrà bene, perché non ho quelle competenze, non ho quelle capacità e soprattutto non mi pagano per quello. Adesso a noi non ci paga nessuno, ma dobbiamo rispondere a quello che Dio ci chiede di fare e rispondere a quello che Dio si aspetta che noi facciamo. Ecco perché sono delle piccole cose, ma importanti, che hanno una rilevanza e fanno veramente la differenza. Quindi ogni gruppo familiare, da quello degli adolescenti, a quello dei giovani adulti, a degli adulti, a degli uomini, a delle donne, ha come obiettivo realizzare la visione della Chiesa. Adorare, un popolo di veri adoratori. Adorare significa riconoscere la sovranità di Dio, riconoscere che Lui è il Signore, mettere la sua volontà, mettere la sua persona al di sopra di noi stessi. Se voi andate a leggere i primi comandamenti, è proprio questo quello che il Signore intendeva spingere a fare il popolo di Israele, a sapere che Lui era Dio, a non dimenticarlo, a tenerlo presente. Ora il popolo lo sapeva che Lui era Dio, ma Lui ha voluto sottolineare, fare in modo che ci fosse una testimonianza affinché questo non venisse perso. I gruppi familiari ci aiutano ad adorare Dio, ci aiutano a tenere a mente che Lui è Dio e noi siamo i Suoi servi. Perché se voi chiedete a me, tu metti Dio al primo posto, io 99,9% vi risponderò sì, e sarò anche sincero in quello che dico, come ciascuno di noi. Ma poi io ho bisogno di confrontarmi con mia moglie per vedere se quello che penso di fare è quello che faccio realmente. Ho bisogno che ci sia qualcuno vicino a me che mi dica: Stefano, guarda che non è esattamente così, non è esattamente quello che tu devi fare, quello che stai facendo. Perché? Perché hanno un'altra prospettiva e hanno un'altra visione e mi possono aiutare a realizzare quello che il Signore si sta aspettando da me. Evangelizzare. Un popolo di veri adoratori impegnati ad obbedire al grande comandamento e al grande mandato. Il grande mandato dice: andate per tutti i popoli e predicate l'Evangelo. Il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Questo è l'unico grande desiderio di Dio. E per questo Lui ha sacrificato Gesù, perché ogni uomo sia salvato. A che cosa servono i gruppi? A promuovere l'Evangelo. Questa mattina abbiamo ascoltato la testimonianza della sorella Danubia, che è una donna speciale. E lei ha lasciato Salvador di Bahia, in Brasile, dove io voglio andare, per venire neanche a Modugno, a Sant'Eramo. Ora non lo so quanti di voi sono stati a Sant'Eramo, però non è proprio un centro di vita, ecco, fatemi dire così. E lei diceva: io quando mi guardo intorno non capisco perché Dio mi ha portato qua, ma quando guardo negli occhi delle persone e vedo il bisogno che hanno di Gesù, allora tutto prende una dimensione, un valore diverso, e so perché Dio mi ha mandato qui. E lei ha iniziato da sola a fare il gruppo familiare con le sedie vuote e ha iniziato a pregare per quelle sedie vuote. ringraziando il Signore che le avrebbe riempite. E sapete che? Il Signore le ha riempite e li sta riempendo e si sta servendo di lei per promuovere l'Evangelo e per portare luce in quel paese. Discepolare. Discepolare, io lo vorrei dire in parole forse più pratiche, in parole più semplici. Vuol dire semplicemente aiutare, incoraggiare qualcuno affinché possa diventare quello che Dio lo chiama ad essere. Dio mi chiama a essere un uomo suo, un uomo secondo il cuore suo, ma io da solo non ci riesco. Io ho bisogno di persone accanto a me che mi aiutano a fare questo. Questo è discepolare. Discepolare significa essere al fianco di qualcuno affinché lui realizzi il piano che Dio ha con la sua vita. Quando in Efesini al capitolo 4 è scritto che la Chiesa prende vigore da ogni singolo membro, intende questo, intende esattamente questo. Nessun organo del nostro corpo è fine a se stesso, ma è lì per servire qualcos'altro o qualcun altro. Allo stesso modo, io sono chiamato a servire qualcuno per aiutare lui a realizzare il piano che Dio ha con la sua vita. Ma io, se voglio realizzare il mio, ho bisogno che qualcuno aiuti me a diventare quell'uomo e a realizzare quello che Dio si aspetta da me. Quindi noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Io vorrei invitare Francesco, che vuole condividere la sua testimonianza riguardo ai gruppi. Un po' agitato, buonasera. Io volevo appunto, ringrazio la Chiesa per avermi dato questa opportunità di poter raccontare la mia esperienza personale grazie ai gruppi famiglia, perché grazie ai gruppi famiglia che ho iniziato a vivere la Chiesa in maniera attiva. Io circa un anno fa ho iniziato a frequentare la Chiesa, ma i gruppi famiglia si stavano creando e quindi diciamo che venivo al culto alle 7:01 e alle 8:30 scappavo, perché ovviamente ero molto timido, ero molto chiuso, avevo comunque un passato dove ero stato ferito, ero stato comunque tradito e quindi avevo difficoltà nelle relazioni, avevo difficoltà nell'aprirmi con gli altri e avevo anche una poca autostima. Io ringrazio il gruppo famiglia perché è stata per me una rivoluzione, mi ha fatto capire che stavo costruendo la mia vita sulla sabbia e questo non è da Dio, ma ho iniziato a costruirla sulla roccia, mattone dopo mattone, e ogni componente del mio gruppo mi sta aiutando, mi ha aiutato e mi aiuterà a fare questo. Ed io sono onorato per il mio gruppo perché è stato per me fondamentale. Qualche giorno fa mi stavo soffermando sull'importanza del gruppo famiglia e stavo cercando di capire il motivo, l'importanza del gruppo, e cercavo ovviamente un aspetto individuale, cioè immaginavo che ogni persona fosse il membro dello stesso corpo che è Cristo Gesù. Però ovviamente immaginate un membro da solo che ha un'essenzialità, ha un'importanza, però è fine a se stessa, come ha appena detto Stefano. E il Signore mi ha aperto una grande chiave di lettura, che è quella della collettività. Cioè siamo stati creati per la comunità, siamo stati creati per vivere in comunione e non possiamo adempiere al piano che Dio ha per noi da soli. Dobbiamo per forza avere l'altra persona a fianco. E c'è un verso che vorrei leggervi che mi ha molto segnato in questi giorni, che mi farebbe piacere condividere con voi. È 1 Corinzi 12, verso 25-26, che dice: «Perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui». E io credo che la parola chiave sia amore. Se noi affrontiamo il gruppo come un voler donare amore al prossimo, amore riceviamo. E questo è un modo per onorare Dio. E penso che sia l'attività più nobile che si possa fare, che è quella di onorare Dio. E come dice il pastore, ha sempre detto di andare nel gruppo per dare. Io ho sempre portato qualcosa, ma non sono mai tornato a casa vuoto. Ho sempre portato qualcosa in più e che mi arricchisce e so che mi arricchirà. E io ringrazio il mio gruppo, ogni singola persona, perché sta cambiando la mia vita e so che Dio ha delle prospettive più grandi per me, ma con loro la vittoria è sicura. Quindi voglio ringraziare il mio gruppo. Grazie a te. Molto bello. Poi li voglio conoscere, i membri del gruppo. È molto bello vedere che quello, quello di cui stiamo parlando lo stiamo anche vivendo e lo vogliamo vivere sempre di più, sempre più intensamente, sempre più con forza e con successo. Ora non dobbiamo commettere l'errore di pensare, io prima di poter dare qualcosa però devo essere all'altezza, devo risolvere i miei problemi, perché ho bisogno io che qualcuno mi incoraggi, come faccio io a incoraggiare gli altri? Se noi pensiamo così, nessuno di noi si sentirà o sarà all'altezza di fare qualcosa. E quando qualcuno pensa di essere all'altezza, noi possiamo tacciarlo come presuntuoso, ma non è così, perché è il Signore quello che ci rende capaci, è il Signore quello che ci dà il mandato per fare questo. E noi, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, siamo quelle persone, siamo quei mezzi che il Signore ha scelto per benedire l'altro. Tu come ti vedi? Quello che vedi è sufficiente al Signore per poter benedire un altro. E questo è qualcosa di molto bello, questo ci rende famiglia. Non abbiamo bisogno di essere uno meglio dell'altro, ma abbiamo bisogno di essere uno a fianco all'altro. E io voglio concludere con un incoraggiamento. Voglio dirvi tre caratteristiche per essere abilitati ad avere responsabilità come capogruppo, ma anche l'uno verso l'altro. Ci sono tre caratteristiche che noi dobbiamo avere. Prima di tutto, la disponibilità. Noi dobbiamo volerlo fare. O essere la guida di un gruppo, o essere membro di un gruppo, lo devi voler fare. Non ti costringerà nessuno a farlo e troverai un sacco di scuse per non farlo. Ma già abbiamo detto perché serve, non vale la pena che lo diciamo di nuovo. Ma la tua disponibilità fa la differenza. Essere disponibile significa dire un sì, lo voglio. Ed essere disponibile veramente significa, per quel sì che diciamo, dire un altro no che ci permette di fare quello che scegliamo. Altrimenti sarà solo un desiderio. Ma se noi iniziamo a pensare, a dire ok, io c'ho tutta la settimana impegnata, però voglio far parte di quest'area, voglio essere utile, voglio essere quella persona che è parte della Chiesa, allora inizi a pensare che cosa puoi togliere. Forse puoi togliere qualcosa che ti permette di fare qualcos'altro. Dio ti chiama a questo, la tua disponibilità è essenziale. Poi devi essere fedele. In 1 Timoteo è scritto le cose che ha udite, in 2 Timoteo 1:2 è scritto le cose che ha udite da me, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle ad altri. Essere fedeli è molto semplice. Io ho preso un esempio che è quello di questa amplificazione. Questa amplificazione è fedele perché le cose che io sto dicendo arrivano a voi esattamente per quello che io sto dicendo. E la mia voce, per quanto può essere brutta, arriva a voi esattamente com'è, senza cambiare significato, senza cambiare tono, senza che possa esserci confusione. Essere fedele significa condividere la visione della Chiesa, condividere il cuore del pastore e esattamente andarlo ad amplificare nel gruppo familiare. Così come lo ricevi, così lo puoi dare. La tua fedeltà, essere un mezzo, essere un tramite. L'ammaestrabilità, essere ammaestrabile. Essere ammaestrabile significa semplicemente guardare al cambiamento, essere disposto a cambiare. E come Chiesa noi stiamo vivendo tanti cambiamenti. E c'è un metro con il quale noi possiamo misurare la nostra ammaestrabilità, e cioè la gioia con cui viviamo i cambiamenti. Abbiamo visto che abbiamo festeggiato in modo, dato attenzione particolare alla festa del papà, al Natale, daremo un'attenzione particolare alla Pasqua. E tutto questo è qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo. Ma è importante che noi capiamo che non è importante il cosa, quanto è importante il perché. E noi possiamo cambiare il cosa e il come. Li possiamo cambiare, stravolgere e fare in un modo diverso solo perché ci aiutano a raggiungere l'obiettivo che Dio ci ha messo dinanzi. E se noi crediamo veramente questo, noi lo possiamo fare. C'è in Matteo al capitolo 5 una storia dove Gesù parla alla fine del sermone sul monte e dice: voi avete udito questo, ma io vi dico. E lui dice: voi avete udito che chi uccide deve essere sottoposto al tribunale, ma io vi dico. E in quel momento Gesù stava cambiando le cose. Non stava cambiando il perché, stava cambiando il come. E lo ha detto 6 volte. E io credo che ci siano stati molti più cose che Gesù avrebbe voluto denunciare e cambiare. Si è fermato a 6. 6 è un numero simbolico che intende sottolineare la parzialità, l'imperfezione. E io credo che il Signore l'abbia scelto di fare perché ci sono ancora tante cose che noi possiamo pensare e dire: abbiamo fatto così, ma io vi dico che c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di diverso. Essere ammaestrabile significa essere aperti al cambiamento, prenderlo, riceverlo con cuore, con gioia e promuoverlo. Voglio concludere con un incoraggiamento. Efesini 2:8 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere che Lui ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. C'è qualcosa che Dio ha preparato per te. E se tu accogli quello che Dio ha preparato per te, non è necessario che inventi niente. Devi solo ascoltare quello che Lui dice e farlo. Nei nostri gruppi familiari noi non vogliamo cambiare il perché, vogliamo stravolgere il come e farlo ognuno con i doni, con l'entusiasmo, con i talenti che ha, al fine di poter raggiungere ognuno e offrire a ognuno la migliore opportunità per essere quell'uomo e quella donna secondo il cuore di Dio. Ma il perché è molto chiaro: per l'avanzamento e per la gloria di Dio. Se noi abbracciamo questa verità, e cioè che quando noi facciamo quello che Dio ci chiede di fare, Lui si prende la responsabilità, noi possiamo anche essere certi del successo e possiamo non aver paura, possiamo avere fede in quello che Dio ci chiede di fare e farlo, perché è Lui che ci chiede di farlo. E il Signore questa sera chiede a te, chiede a me, di cambiare il tuo modo di vivere la Chiesa. Chiede a te, chiede a me di cambiare la tua prospettiva di Chiesa e di abbracciare quella sua. Dio ti vede come qualcosa di importante e ci sono persone accanto a te che hanno bisogno del tuo contributo, e tu certamente hai bisogno del contributo di persone nella tua vita per realizzare il piano che Dio ha. Tutto questo trova la sua concretezza nei gruppi familiari, un gruppo di persone che sceglie di mettere Cristo al centro, di adorarlo, di promuovere la sua parola, di prendersi cura l'uno dell'altro affinché sia fatta la sua volontà e affinché venga il suo regno. Vogliamo alzarci in piedi per piacere? Signore Gesù, io voglio ringraziarti per la tua parola, perché è una luce, perché porta la verità nella nostra vita. E io ti chiedo questa sera, Signore, di dare quel coraggio a ognuno di noi di mettere mano nella propria vita e di cambiare quello che tu chiami a cambiamento e di lasciare quello che tu ci chiedi di lasciare e di prendere quello che tu ci stai offrendo. Signore, io so che se tu ci metti dinanzi a una scelta, tu ci darai la forza e le risorse per rispondere a quella chiamata e avere successo, perché questo dà gloria al tuo nome e questo rende le nostre vite preziose e questo rende il nostro stare assieme, il nostro essere chiesa glorioso, che dà gloria al tuo nome. Ti ringrazio, Signore Gesù, e ti prego affinché ognuno di noi possa portare il frutto che tu ti aspetti e possa realizzare quelle opere che tu hai preparato. Togli da noi ogni timore, ogni paura, togli da noi ogni autonomia e rendici solidali a te e solidali l'uno all'altro per poter vivere ed essere quella Chiesa che tu ci chiami ad essere. Ti benediciamo, Signore Gesù, e ti diamo ogni lode e ogni gloria. Amen.